Per parte mia, ero tanto più felice che il signor di Charlus si sostituisse abbastanza spesso alla principessa Scherbatov, in quanto ero in pessimi rapporti con quest'ultima, per una ragione al tempo stesso insignificante e profonda. Un giorno che ero sul trenino, intento a colmare di premure come al solito la principessa Scherbatov, vidi salire Madame de Villeparisis. Era venuta infatti a passare qualche settimana dalla principessa di Luxembourg, ma io, incatenato al bisogno quotidiano di vedere Albertine, non avevo mai risposto ai reiterati inviti della marchesa e della sua regale ospite. Vedendo l'amica della nonna, provai rimorso e per puro dovere, senza abbandonare la principessa Scherbatov, conversai abbastanza a lungo con lei. Ignoravo del resto nel modo più assoluto che Madame de Villeparisis sapesse perfettamente chi era la mia vicina, ma non volesse conoscerla. Alla stazione successiva, Madame de Villeparisis lasciò il vagone, mi rimproverai anzi di non averla aiutata a scendere, e io tornai a sedermi accanto alla principessa. Se non che, cataclisma frequente nelle persone dalla posizione poco solida, timorose, che si sia sentito parlare male di loro, che le si disprezzi, si sarebbe detto che fosse avvenuto un cambiamento a vista. Sprofondata nella sua revue des deux mondes, Madame Scherbatov rispose a stento, a fior di labbra, alle mie domande e finì col dirmi che le facevo venire l'emicrania. Non mi capacitavo del mio crimine. Quando dissi arrivederci alla principessa, l'abituale sorriso non rischiarò il suo volto. Abbassò il mento in un secco saluto, non mi tese nemmeno la mano e dopo non mi ha mai più riparlato. Dovette parlare, tuttavia, ma non so per dire cosa, ai Verduran, perché non appena chiedevo loro se non avrei fatto bene a usare qualche cortesia a Madame Scherbatov, tutti uscivano in un coro precipitoso. No, no, no, no, no, questo no, assolutamente non le piacciono le cortesie. Non lo dicevano per mettermi in disaccordo con lei. Il fatto è che la principessa era riuscita a far credere d'essere insensibile alle premure, un'anima inaccessibile alle vanità di questo mondo. Bisogna aver visto l'uomo politico che passa per il più integro, il più intransigente, il più inavvicinabile da quando è al potere. Bisogna averlo visto, ai tempi della sua disgrazia, mendicare timidamente, con un sorriso smagliante da innamorato, il saluto altezzoso d'un giornalista qualsiasi. Bisogna aver visto raddrizzarsi Cotard, che i suoi nuovi pazienti prendevano per una sbarra d'acciaio, e sapere di quali ripicche amorose, di quali smacchi di snobismo erano fatti l'apparente alterigia, l'antisnobismo universalmente riconosciuto della principessa Scherbatov, per capire come nell'umanità la regola, soggetta naturalmente a qualche eccezione, sia che i duri sono dei deboli di cui gli altri non si sono curati e i forti, indifferente che ci si curi o meno di loro, sono i soli a possedere quella dolcezza che il volgo scambia per debolezza. D'altronde non bisogna giudicare con severità la principessa Scherbatov. Il suo è un caso così frequente. Un giorno, al funerale di un Germant, un uomo notevole che mi stava accanto mi indicò un signore slanciato con un bel viso. «Di tutti i Germant», mi disse il mio vicino, «quello è il più straordinario, il più singolare, è il fratello del duca». Imprudentemente gli risposi che si sbagliava, che quel signore non aveva alcuna parentela con i Germant e si chiamava Fournier Sarlovez. L'uomo notevole mi voltò la schiena e da allora non mi ha mai più salutato. Un grande musicista, membro dell'Institut, alto dignitario ufficiale e conoscente di ski, passò da Arambouville, dove aveva una nipote, e venne a un mercoledì dei Verduran. Il signor di Charlus fu particolarmente gentile con lui su richiesta di Morel e soprattutto perché, una volta tornati a Parigi, l'accademico gli consentisse d'assistere a vari spettacoli privati, prove, eccetera, in cui suonava il violinista. L'accademico, lusingato e del resto persona incantevole, promise e mantenne la promessa. Il barone fu molto commosso di tutte le cortesie usategli da quel personaggio, il quale, d'altronde, per quanto lo concerneva, amava unicamente e profondamente le donne, di tutte le facilitazioni che gli procurò per vedere Morel nei luoghi ufficiali in cui i profani non entrano, di tutte le occasioni offerte dal celebre artista al giovane virtuoso di esibirsi, di farsi conoscere, designandolo, a preferenza ad altri di uguale talento, per audizioni destinate ad avere una risonanza particolare. Ma Charlot non sapeva di dovergli tanto maggiore riconoscenza in quanto il maestro, doppiamente meritevole, o se si preferisce doppiamente colpevole, non ignorava nulla dei rapporti che legavano il violinista al suo nobile protettore. Li favorì quei rapporti, certo senza alcuna simpatia per essi, giacché non poteva capire altro amore che quello per la donna, da cui era stata ispirata tutta la sua musica, ma per indifferenza morale, abitudine professionale ad essere compiacente e servizievole, amabilità mondana, snobismo. Di dubbi sulla natura di quei rapporti ne aveva così pochi che sin dal primo pranzo alla Raspellière, parlando di Charlot e di Morel, aveva chiesto a Schi come se si fosse trattato di un uomo e della sua amante, e molto che stanno insieme. Ma troppo uomo di mondo per tradirsi con gli interessati, pronto, se fra i compagni di Morel si fosse acceso qualche pettegolezzo, a reprimerlo e a rassicurare Morel dicendogli paternamente: «È una cosa che dicono di tutti oggi», non smise di colmare il barone di gentilezze che questi giudicò incantevoli, ma naturali, non potendo immaginare nell'illustre maestro tanto vizio o tanta virtù. Le battute che si dicevano in sua assenza, le illazioni su Morel, nessuno era d'animo così vile da andare a riferirle a Charlot. Eppure, questa semplice situazione basta a dimostrare come anche una cosa universalmente esecrata e che non troverebbe da nessuna parte un difensore, quale il pettegolezzo, abbia anch'essa, o perché avendo per oggetto noi stessi ci risulta particolarmente sgradevole, o perché ci fa scoprire sul conto di un terzo qualcosa che ignoravamo, un suo valore psicologico. Il pettegolezzo impedisce all'intelligenza d'addormentarsi sulla visione fittizia di ciò che essa crede la realtà e non è che l'apparenza. Rivolta quest'ultima con la magica destrezza di un filosofo idealista, presentandoci fulmineamente un angolo insospettato del rovescio della stoffa. Mai Charlot avrebbe potuto immaginare queste parole in bocca a una sua tenera parente. «Come puoi pensare che Mémé si è innamorato di me? Evidentemente ti stai dimenticando che sono una donna». E tuttavia questa donna nutriva per lui un affetto vero, profondo. Come meravigliarsi allora che nel caso dei Verdurin, sul cui affetto e sulla cui bontà il barone non aveva alcun diritto di fare affidamento, i discorsi che essi facevano in sua assenza, che non furono soltanto, come vedremo, dei discorsi, fossero così diversi da come lui li immaginava, cioè semplici riflessi di quelli che sentiva quando era presente? Questi, e solo questi, adornavano con iscrizioni affettuose il piccolo padiglione ideale dove Charlot andava talvolta a fantasticare in solitudine, quando si introduceva per un attimo con la fantasia nel concetto che i Verdurin avevano di lui. L'atmosfera lì era così simpatica, così cordiale, il riposo così confortevole, che quando Charlot, prima di addormentarsi, vi indugiava per qualche istante a rilassarsi obliando le sue cure, non ne usciva mai senza un sorriso. Ma per ciascuno di noi un padiglione si fatto è duplice. Di fronte a quello che riteniamo l'unico, c'è l'altro, il vero, a noi solitamente invisibile, simmetrico a quello che conosciamo, ma ben diverso, e la cui decorazione, dove non ritroveremmo niente di quanto ci aspettavamo di vedere, ci spaventerebbe, fatta com'è dei simboli odiosi di un'ostilità insospettata, Che stupore per Charlot se fosse capitato in uno di tali padiglioni avversi, grazie a qualche pettegolezzo, come da una scala di servizio dove graffiti osceni sono scarabocchiati sulle porte degli appartamenti da fornitori scontenti o da domestici licenziati. Ma così come siamo privi del senso d'orientamento di cui sono dotati certi uccelli, noi manchiamo sia del senso della visibilità, sia di quello della distanza, immaginandoci vicinissimi all'attenzione interessata di persone che, al contrario, non pensano mai a noi, e non sospettando di essere nel frattempo la preoccupazione esclusiva di altre. Così Charlot viveva nell'inganno, come il pesce convinto che l'acqua in cui nuota si stenda oltre la parete di vetro dell'acquario che gliene mostra il riflesso, mentre non vede accanto a sé, nell'ombra, il visitatore che osserva divertito i suoi svaghi, o l'onnipotente piscicoltore dal quale, al momento imprevisto e fatale, un momento provvisoriamente differito per il barone, il cui piscicoltore a Parigi sarà Madame Verduran, verrà tolto senza pietà dall'ambiente in cui amava vivere per essere gettato in un altro. I popoli stessi, in quanto collezioni di individui, possono offrire esempi più vasti, ma identici in ciascuna parte di questa cecità profonda, ostinata e sconcertante. Finora, se era la causa di certi discorsi, inutilmente abili o d'un'audacia di cui si sorrideva di nascosto, fatti da Charlot nel piccolo clan, essa non aveva ancora prodotto, tuttavia, né doveva produrre a Balbec inconvenienti per lui gravi. Un po' d'albumina, di zucchero, di aritmia cardiaca non impediscono la prosecuzione di una vita normale per chi nemmeno se ne accorge, mentre soltanto il medico vi scorge una profezia di catastrofi. Per il momento l'inclinazione, platonica o no, di Charlot verso Morel spingeva semplicemente il barone a proclamare volentieri, in assenza di Morel, che lo trovava bellissimo, pensando che la cosa sarebbe stata accolta affatto innocentemente e comportandosi in questo come un uomo sagace il quale, chiamato a deporre in tribunale, non tema di entrare in particolari apparentemente svantaggiosi per lui, ma proprio per questo più naturali e meno volgari delle convenzionali proteste di un imputato da commedia. Con la stessa libertà, sempre nel tratto fra Doncier West e Saint-Martin-du-Chêne o in quello inverso al ritorno, Charlot parlava volentieri di persone che hanno, a quanto pare, costumi assai strani e aggiungeva persino: «Dico strani, ma in fondo non so neanch'io perché, dopotutto non c'è niente di così strano», per dimostrare a se stesso quanto fosse a proprio agio con il suo pubblico. E in effetti lo era, a patto che fosse lui ad avere l'iniziativa delle operazioni e che potesse contare su un uditorio muto e sorridente, disarmato dalla credulità o dalla buona creanza.